Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Denaro sì, denaro no, con duo di denari puoi guadagnare se vuoi ascoltare Meazza Rosciani. Se allo spread tu dici no, più interessi ti darò. Fa fifi, fu fa fifi, oh che meraviglia. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. L'emergenza, mi dica. Senta, io c'ho una persona al telefono che passa per la mia nipote, e invece io la conosco che non è mia nipote, vuole l'oro che vada a prelevare i soldi. Quanti soldi le ha chiesto? 15. 15.000 euro? Sì. E allora sì, poi questa conversazione fra questa signora e la polizia di Stato continua per un po', fino a quando praticamente la polizia riesce a intercettare la furfantella che tentava appunto di truffare questa anziana signora, che però con uno stratagemma. Cara Debora, buongiorno, a proposito, benvenuta a Due di Denari. No, io volevo subito sottolineare la notizia, perché nel caso ti chiamasse qualcuno che si spaccia per mio nipote. Esatto, una tua nipote magari giovane. Certo, fai bene, perché ovviamente io avendo già una certa età, però noi scherziamo su questa cosa, ma invece ma è un stratagemma disgustoso che talvolta viene utilizzato, cioè viene chiamata una persona anziana, ci si spaccia per il nipote, un parente o insomma quant'altro. Peggio, sono un amico di tuo figlio che ha avuto un incidente stradale in ospedale, per andare in clinica deve chiedere, ha bisogno di soldi, che è quanto di più angosciante. Appunto, esatto, sono delle truffe vere e proprie. Questa signora però è stata bravissima, ha chiamato trattenendo la truffatrice al telefono. 15. Sì. Le ha chiesto 15.000 euro. Sì, quindi a bassa voce, proprio per non far capire che con l'altro telefono stava chiamando. E comunque la truffatrice è stata arrestata. È bello saperlo. E la signora, come dire, è una grande cacciatrice di serpenti corallo, possiamo Ottima. Dire. Mm-hmm. Pensione molto ben meritata, ecco questa. Se la signora, speriamo che la prenda, ovviamente. Perché oggi parleremo proprio di pensioni. Esattamente. Perché ne parliamo, Debora? Ma guarda, allora, proprio, dunque, oggi intanto ci sarebbe dovuto essere un tavolo al Ministero del Lavoro, che però Vero. È stato cancellato perché, come è noto, la ministra Catalfo è in quarantena perché è stata in contatto con qualcuno che ha il Covid, e quindi questo tavolo salta. Però si dovrebbe rimettere un po' mano al cantiere sempre aperto delle pensioni. I temi importanti quali sono in questo momento? Tutte le uscite anticipate, abbiamo quota 100 che è ancora in fase sperimentale, ma chissà si manterrà, non si manterrà prossimamente. Abbiamo i soldi per continuare a procrastinare questa operazione? Adesso dovrei guardare un attimo, perché ecco, non sono stato neanche al bancomat oggi. Vedo Paolo Corleone in regia che mi fa segno sì, quindi lui ha dei soldi lui da mettere. Lui ce l'ha, vabbè, speriamo per la sua di pensione. No, tra l'altro ieri sentivo in una trasmissione televisiva a casa Carlo Cottarelli che diceva: allora, basta mettere soldi nelle pensioni. E però qua vale a dire a tutti quelli che così hanno vicino il traguardo e poi glielo scippano continuamente. Vabbè, non è un problema di voi giovani, cara Debora. Come no. Comunque è vero, sì, si sta discutendo su che fare, manteniamo queste uscite anticipate, non le manteniamo. C'è opzione donna, esatto, che viene, probabilmente verrà ulteriormente prorogata. Insomma, allora abbiamo scomodato due esperti di valore. Che c'è non l'APE, è... esatto. Bravo, brava, l'anticipo pensionistico, però quello sociale che è quello che si vuole portare avanti. Ebbene, abbiamo scomodato due esperti di valore mondiale. Se avete curiosità, guarda, noi ci scherziamo dubbi, spesso, ma oggi proprio veramente, cioè, oggi proprio non possiamo essere smentiti. Diciamo che ci scherziamo, però non andiamo per tanto mio. Lontani dalla verità. Se facessero i ministri non sarebbe male. Magari i sottosegretari, ecco. Non so se augurarglielo o meno, perché sono anche due amici. Comunque 800 24 00 24, se volete interloquire con noi, vi accoglierà quest'oggi nelle funzioni di mia badante e di aiutante per Debora Rosciani, Valentina Ternullo, che oggi è l'assistente in regia accanto all'ottimo Paolo Corleone. L'ho fatta divertire un sacco preparare le clip di questa mattina. Adesso senti quella con cui apriamo il giornale Radio del Risparmio. Andiamo. Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Stryker, ora ascolta e ascolta bene. Non c'è differenza tra un aereo e una bicicletta. Ma c'è differenza tra una bicicletta e un aereo. Ma per te non fa alcuna differenza perché non sai andare in bicicletta. Vabbè, non potevamo non scomodare l'aereo più pazzo del mondo per introdurre la prima notizia della giornata, della quale abbiamo già largamente parlato anche nei nostri giornali radio. Sì, perché appunto, come avete ascoltato, l'autorità garante della concorrenza ha avviato 4 procedimenti su questo meccanismo. Ne avevamo parlato un po' qui a Due di Denari, di vendere dei biglietti da parte delle compagnie e poi di sopprimere il volo, incamerando però così il biglietto medesimo e spostando, ovviamente proteggendo, come si dice in gergo, i visitatori, i viaggiatori su altre tratte. Però ovviamente non sempre questo utilizzo è possibile. Insomma, l'autorità garante ci vuole vedere più chiaro e allora ha avviato un procedimento in base appunto a un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori. Soprattutto viene contestato il fatto che sono stati cancellati molti voli quando non erano comunque più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi. E però se tu un aereo non lo riempi, io penso che anche le compagnie aeree, poveracce, non è che possano far partire un volo facendo volare solamente il pilota, tu che dici? I biglietti rimborsateli allora. Devo dire che è un po' lo specchio di quanto abbiamo sempre detto per le agenzie di viaggio, i rimborsi, esatto, per i viaggi. Ne abbiamo parlato anche proprio questa settimana qui a Due di Denari in una delle puntate. Trovate tutte queste puntate se andate su www.radio24.it. Davvero? Certo. Cioè, noi abbiamo proprio una sezione, sai Deborah, dentro programmi c'è il nostro Due di Denari e ci sono tutte le puntate certosinamente raggruppate lì con appunto la titolazione, l'argomento, e quindi uno può riascoltare quello che gli interessa. Comunque il punto è che ci stanno arrivando ancora tante segnalazioni da parte di tante persone che hanno prenotato voli aerei per i mesi passati e per i quali non hanno ancora nessun tipo di segnalazione di iniziativa delle compagnie aeree. C'è chi rimborsa direttamente il biglietto, lo fa la compagnia italiana più grande, quella più nota, ma bisogna insistere molto. Le altre invece erogano i voucher, ma i voucher con l'equivalente della spesa iniziale. Se tu un viaggio non puoi farlo da qui ad un anno e questo voucher vale un anno, 6 mesi, bisogna un po' ripensarle queste iniziative di tutela del consumatore, per carità, comprendendo tutti i disagi delle compagnie, ma bisogna, credo, rimettere mano all'intera questione. Senti, devo darti un aggiornamento, perché tu ieri giustamente ti sei appassionata alla bolletta a 28 giorni. Beh, sono 3 anni che siamo appassionati dell'argomento. Sì, ma poi c'è stato proprio, come ricorderai, un articolo inserito in un decreto legge, è stato definito non da te il Roscianellum, perché appunto questo metteva fine a questa pratica di passaggio in modo unilaterale alla fatturazione, esatto, a 28 giorni. Provvedimento di legge gli ha detto alle compagnie basta. Esatto, sembrava tutto finito, ma allora, come abbiamo detto ieri, adesso si va alla Corte di Giustizia Europea. Perché? Perché il Consiglio di Stato ha emesso quindi questa ordinanza sul ricorso, se abbiamo segnalato ieri, promosso naturalmente dalle compagnie telefoniche, le quali non ci vogliono stare, direbbero a Roma, esatto, non ci vogliono stare, e quindi vanno fino alla Corte Europea per capire se questo aver imposto una modalità di tarifazione, di fatturazione, certo, a 30 giorni sia una prerogativa dello Stato è possibile o meno, oppure magari, che so, lede i principi della concorrenza. Lo chiedono direttamente agli eurogiudici, vedremo che cosa decideranno e se ci toccherà riaprire questo, esatto, faldone che pensavamo oramai fosse superato. Diciamo che noi oggi ci ritorniamo perché una grande organizzazione dei consumatori, l'Unione Nazionale Consumatori, guidata dall'avvocato Massimiliano Dona, in realtà giudica un passo indietro questo ricorso alla giustizia europea, perché lui dice, insomma, tutti gli organismi italiani hanno in qualche maniera deliberato sulla questione fino addirittura a diventare un provvedimento di legge, quindi non si capisce perché ancora le compagnie vogliono andare avanti con questa lite. Però non è che, insomma, vogliono capire se è proprio così, se è stato fatto tutto per bene, è anche legittimo, anche per il piacere di saperlo, cara Deborah. Certamente. Allora, ti farà piacere sapere che c'è l'organismo di vigilanza sul mercato assicurativo, l'IVAS, che diffonde una newsletter, quindi se tu vai sul loro sito ti puoi anche iscrivere e arriva IVAS anche con 2S.it. Esattamente. E hanno nell'ultima nota che hanno diramato, hanno fatto un po' un punto della situazione sulle cosiddette polizze dormienti, cioè su tutte quelle polizze assicurative che può capitare nella vita di stipulare, sottoscrivere, poi però te le dimentichi in un cassetto, non le vai a riscuotere, ad un certo punto questo denaro finisce in un fondo gestito dalla Consap e con difficoltà si può andare a richiedere di risvegliare queste polizze. Allora, da quando c'è la possibilità di risvegliarle, l'IVASS ha fatto sapere che in Italia praticamente le imprese italiane hanno dato seguito al risveglio per un valore su polizze per un valore di circa 4 miliardi. L'ultimo bilancio che hanno stilato è quello che riguarda invece le polizze già liquidate sottoscritte presso le compagnie estere. Ti dico la nota: ammonta a 492 milioni di euro, di cui circa 400 milioni già liquidati ai beneficiari, l'importo delle polizze dormienti risvegliate dall'IVASS presso le compagnie estere operanti in Italia. Per fare questa operazione l'IVASS ha dovuto lavorare molto anche con le autorità di vigilanza dei paesi di origine delle compagnie, al fine di acquisire poi i dati delle compagnie estere a cui bussare alla porta, naturalmente, quindi un lavoro complesso che però sta portando dei buoni risultati. Ma siccome ce ne sarebbero ancora molte in giro di queste polizze che se la dormono bellamente, fate attenzione, guardate nei cassetti, magari ci trovate qualche buono postale, come qualche volta ci è capitato di dire, magari qualche polizza invece stipulata e poi non richiesta. Appunto rimborso non è stato richiesto. Attenzione che dopo tantissimo tempo si cade in prescrizione e non c'è più il diritto neanche di rivolgersi appunto al fondo delle polizze dormienti. Allora, già gli ascoltatori premono per la questione delle pensioni. Figurati. Non abbiamo nemmeno ricordato il numero per gli SMS e WhatsApp. Ma non scherzerei mica. 349-238-6666. Però prima, abbiate pazienza, perché non solo abbiamo la nostra rubrica del Dillo a Due di Denari, ma poi c'è anche un altro temuccio che vorremmo segnalarvi per così portare alla vostra attenzione. Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Io ho un'attività, lavoro con 6 banche. Si continua a dire che i tassi sono praticamente a zero. In questo volevo far presente che in questo periodo, già da un mese a questa parte, i tassi sono aumentati di un punto minimo. Lo sono anche negli istituti, quelli più grandi che abbiamo in Italia. Non mi risulta che esistano dei tassi allo 0,50, forse per le aziende che fanno milioni e milioni di euro. Io nel mio piccolo faccio 5 milioni di euro di fatturato e le banche mi hanno cresciuto il tasso di 1,50 in questo periodo. Grazie, siete bravissimi. Ciao ciao. Solo per dire garbatamente, 0,50 era quello segnalato per i mutui immobiliari. Esatto. Quindi. Poi i finanziamenti di altra natura ovviamente vengono negoziati, insomma, e sicuramente sono più cari, ecco, anche perché il mutuo immobiliare ha tutta una serie di garanzie, bla bla bla. Però adesso non vorrei tediare gli ascoltatori, invece vorrei passare all'altro tema della giornata. Rapidamente vediamo, perché è la possibilità di ottenere un rimborso. Abbiamo una sigla musicale apposita, c'è pescata proprio per l'occasione. You can keep them for the birds and bees, now give me more. Allora, chissà se il corredo musicale piace al nostro ospite che ci racconterà la notizia, soprattutto che ci spiegherà il risultato che questa organizzazione dei consumatori è riuscito ad ottenere. Il Movimento Consumatori, il legale, l'avvocato Paolo Fiorio. Buongiorno avvocato e ben trovato. Pronto? Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, l'invito musicale molto volentieri. Le piace. Qua ci si diverte. Cioè, cerchiamo anche attraverso queste modalità di alleggerire i temi dei quali parliamo, perché spesso sono un po' dei mappazzoni, ma in ogni caso stamattina non sono tali, perché invece raccontiamo di una buona notizia. Mauro. Esatto, la buona notizia è che praticamente c'è stata prima di tutto l'applicazione di una class action che si è conclusa positivamente per i consumatori, e questo già mi pare una notizia da segnalare. Esatto, perché non succede spesso. No, negli ultimi anni praticamente io credo che le contiamo sulle dita di mezza mano, non neanche tutta. E poi la questione è stata questa, che Santander fino al mese di aprile 2020 usava addebitare ai consumatori una serie di spese anche se questi rimborsavano in anticipo il prestito che avevano ottenuto. C'è stata appunto una causa promossa dalla l'associazione e il Tribunale di Torino ha dato ragione all'associazione. Quindi adesso che cosa succede, Avvocato Fiorio? Prima di tutto, se ho sbagliato qualcosa mi corregga, ma poi che cosa succede da qui in avanti per i consumatori? Ricordiamo che il Banco Santander è la più grande banca spagnola, ma ha una grande attività, una grande operatività anche in Italia con l'erogazione appunto di finanziamenti, prestiti, cessione di quinto dello stipendio e della pensione. Avvocato Fiorio. Ma il Tribunale di Torino, con un'ordinanza pubblicata 2 giorni fa, ha accertato che le clausole di Santander, che in caso di estinzione anticipata prevedevano la restituzione solo di alcuni degli oneri delle commissioni, e in particolare non di quelle legate all'istruttoria, alle commissioni di intermediazione, era una clausola illegittima. E questo perché a settembre è stata pubblicata una sentenza molto importante della Corte di Giustizia che interpreta la direttiva europea nel senso che in caso di estinzione anticipata le banche, gli intermediari devono restituire tutti i costi in ragione della durata residua del contratto. Una sentenza che si conosce come sentenza Lexitor, perché lo ricordo perché qualche ascoltatore in realtà ci ha chiesto effettivamente come potrebbe funzionare per il prestito che ha in corso sulla base della giurisprudenza creata da questa sentenza. Quindi molti ascoltatori la conoscono molto bene, avvocato, quindi mi faceva piacere per questo ricordare gli estremi. Sì, proprio questa sentenza Lexitor che è intervenuta, diciamo, settore nel quale in Italia venivano applicati dei principi diversi, questo non in maniera pacifica, perché rendiamoci conto che ogni anno decine di migliaia di ricorsi all'ABF riguardano proprio questo tema, ed in particolare riguardano questo tema su alcuni contratti di credito al consumo, quali sono ad esempio i contratti con la cessione del quinto, dello stipendio, della pensione, che sono dei contratti che hanno dei prezzi altissimi. E questi prezzi altissimi sono in parte dovuti proprio anche dal sistema delle commissioni che sono praticate, per cui magari a fronte di interessi del 7-8% il TAEG può arrivare nella soglia d'usura fino al 15-16% con questo grazie proprio a questo tipo di commissioni. Il diritto europeo e il diritto italiano prevedono il diritto del consumatore di estinguere anticipatamente il prestito, e questo sia per consentire magari di accenderne uno a condizioni migliori o anche per, diciamo, ridurre l'indebitamento quando sia possibile, e il diritto del consumatore di avere una riduzione del costo totale del credito su tutte le voci. E quindi un diritto fondamentale, perché in alcuni casi le differenze medie sono intorno ai 1.300-1.500 euro, ma sono 1.300-1.500 euro che non vengono, in caso di estinzione anticipata, restituiti al consumatore, il quale deve appunto, come dire, pagare delle somme superiori. Questo importo... Il Tribunale di Torino ha accertato che questa clausola è nulla e ha condannato Santander a comunicare a tutti i propri clienti che hanno diritto, in caso di estinzione anticipata, ad ottenere la restituzione di tutte queste somme. Di che importi stiamo parlando? 1.300-1.500 è un importo massimo, medio, in base a quello che avete visto? Diciamo, le medie sono sui 1.300-1.500 euro in caso di estinzione anticipata. Quindi qualcuno potrebbe anche avere delle somme superiori. Ma se uno adesso vuole sapere, il Tribunale ha detto a Santander dovete già comunicarlo, quindi dovrà essere Santander ad attivarsi per mandare, che so, un'email, una lettera, qualcosa ai suoi debitori, pardon. Sì, certamente, è stata condannata a pubblicarlo sul proprio sito internet, su un quotidiano che in questo caso è il Corriere della Sera, e con una comunicazione individualizzata a tutti i clienti. Questa infatti non è proprio una class action, ma era un'azione d'urgenza inibitoria nella quale, come dire, il Tribunale ha adottato questi rimedi informativi proprio per consentire che tutti i consumatori possano esercitare appieno i propri diritti, possano essere informati del fatto che anche tutte le estinzioni pregresse, quelle che sono intervenute tra il 2010, che è il momento di attuazione della direttiva europea in Italia è la fine del 2019, momento nel quale diciamo la maggior parte degli intermediari poi si è per il futuro adeguata in parte, secondo noi, alla direttiva della Corte di Giustizia, tutti questi hanno diritto al ricalcolo delle somme pagate in caso di sessione anticipata. Allora, tra l'altro, parla di decine di migliaia di infatti. Allora, se vi venisse il dubbio che potreste essere interessati a questa vicenda, il Movimento Consumatori ha attivato lo sportello prestiti estinzione anticipata e il numero telefonico dedicato 011 56 11 414, quindi cittadini interessati alla vicenda possono mettersi in contatto con gli esperti dell'associazione, avere informazioni su come ottenere il rimborso di quanto pagato e non dovuto. Allora, vedremo se ci sarà qualche ulteriore sviluppo, speriamo di no. La vicenda a questo punto è decisa, non ci possono essere ripensamenti, appelli, gradi ulteriori di giudizio, avvocato Fiorio? No, questo è un provvedimento cautelare che immaginiamo che sarà oggetto di reclamo, che dovrà essere presentato nei prossimi 15 giorni da parte di Santander. Quanti consumatori avete rappresentato con questa iniziativa, avvocato? Ma noi rappresentiamo tutti i consumatori, nel senso che sono delle azioni collettive nelle quali l'associazione non fa una domanda per un singolo soggetto danneggiato, ma fa una domanda diciamo per tutti i consumatori che si trovano nella medesima situazione. No, sì, infatti, esatto, ma per capire quanto fosse diffusa questa, cioè al punto da creare un gruppo da tutelare complessivamente davanti ad un tribunale, lei dice non era esattamente la class action ma qualcosa di molto simile, quindi quanti si sono trovati improvvisamente ad essere consapevoli di questa situazione e a chiedere aiuto al Movimento Consumatori? Sì, è proprio un'azione, come dire, preventiva questa, è un'azione che è diretta a prevenire l'illecito, perché sulla base di questa ordinanza l'intermediario Santander non può applicare una clausola che è considerata nulla, e naturalmente poi la restituzione in concreto dipenderà dalle decisioni di Santander e dalle eventuali azioni individuali, o qui sì, servirà una class action per consentire. Quindi, un conteggio lo potremo fare successivamente solo. Grazie avvocato Fiorio. Grazie a voi, Paolo giornata. Fiorio, grazie, legale del Movimento Consumatori. Adesso rapidamente le borse. Questi due, la Rosciani e l'Altoli, tutto con sta pergamena, con sta cacchela. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Due di denari. Allora, oggi parliamo delle uscite anticipate dal lavoro, ancora qualche possibilità c'è, chissà che cosa potrà essere mantenuto in questo cantiere delle pensioni che è costantemente aperto, anche se oggi c'è una chiusura anticipata della settimana di lavoro della ministra Catalfo, che non può incontrare come previsto le parti sociali perché è in malattia. Sì, però è in quarantena. Guarda, va bene, noi naturalmente facciamo i migliori auguri alla ministra, anche per non solo per la sua salute, ma anche per il suo lavoro, ma tanto noi, noi siamo coperti, siamo corazzati perché abbiamo in collegamento Davide Colombo del Sole 24 Ore. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi. E Antonello Orlando, consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno dottor Orlando. Buongiorno e bentrovati, buongiorno. Allora, Davide Colombo, anche oggi, guarda, se vai sul sito del Sole 24 Ore in questo momento trovi un lavoro suo e del collega altrettanto competente e capace Marco Rogari, che ci stanno raccontando giorno dopo giorno come va questo cantiere delle pensioni. Sì. Allora, abbiamo capito che qualche cosa, Davide, faccio un riassuntino, poi tu spiega meglio. Qualche cosa verrà prorogato, mi parlo opzione donna, insomma queste cose qui andranno avanti anche nel 2020. 2021. Poi su tutto il resto ci ragioniamo nel corso del 2022 e del 2021 e vedremo dal 2022 che succede. Quindi quota 100, quote mica 100, ritiro a 64 anni, eccetera. Anche perché tanto quota 100 ancora è possibile utilizzarla fino a tutto l'anno prossimo, no? Brava che leggi gli articoli di Davide Colombo molto attentamente. Quindi è anche giusto che si prendano un po' di calma, non è che sta scadendo, cioè tutto l'anno prossimo, per riflettere soprattutto sulle risorse che si hanno a disposizione per continuare a garantire questi trattamenti appunto anticipati. Davide. Ma intanto, come dicevate adesso, il cantiere è sempre aperto e con questo approccio di policy resterà aperto oltre che quest'anno anche l'anno prossimo. Diciamo che non ricordo negli ultimi 10 anni un solo anno in cui non ci sono stati interventi al margine sulla nostra previdenza. Il menu, quello che diceva ora Mauro, è essenzialmente quello, cioè si immagina in legge di bilancio di apportare qualche modifica in senso di una proroga, purtroppo non in una resa strutturale di APE sociale e altre misure come per esempio opzione donna, anche perché ci sono dei costi. È molto a rischio che entri in legge di bilancio una estensione della cosiddetta quota 41, che ora è appannaggio dei lavoratori precoci, con coloro che hanno almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni di età. I sindacati chiedono di introdurre questa misura anche per una serie di figure di casistiche di lavoro fragile. C'è anche la novità della sorveglianza sanitaria che è stata introdotta all'articolo 26 della Cura Italia, cioè situazioni di operatori della sanità vincolati dal rientro in sorveglianza sanitaria, che quindi potrebbero trovarsi con una NASP in scadenza e che quindi potrebbero trovare comodo i 41 anni come canale di uscita. È un'incognita, ha dei costi, quindi è abbastanza difficile che passi. Poi c'è il capitolo, la flessibilità per il dopo quota 100. Diceva giustamente Mauro, l'obiettivo di partenza è trovare una sorta di equilibrio sostenibile tra i 63 e i 64 anni. C'è una sottoipotesi, 62 anni, cioè l'attuale limite per quota 100 per lavoratori impegnati in attività usuranti o gravose. Anche qui si aprirebbe un elenco, poi sappiamo come vanno questi elenchi, abbiamo visto la storia degli esodati. Una ipotesi centrale, diciamo così, in questa fase molto interlocutoria di un'uscita a 63-64, più che 63 anni per tutti, con una penalizzazione del 2,8-3% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67, che è il limite di età di vecchiaia. Appunto, l'obiettivo, l'ossessione è trovare una soluzione che consente di uscire 3-4 anni prima rispetto alla vecchiaia. Questo è il ragionamento attorno a cui i tavoli e i sottotavoli tecnici convocati dalla ministra Catalfo si concentreranno, e appunto il tempo è molto ampio, nel senso che se in legge di bilancio va solamente due piccole proroghe, ci sarà tutto l'anno prossimo per riflettere su questa questione del dopo quota 100. C'è l'ipotesi di utilizzare una legge delega, anche questo vedremo se verrà mantenuta, perché abbiamo visto in passato le leggi deleghe in questa materia sono molto delicate, soprattutto nella gestione parlamentare. Insomma, siamo proprio all'inizio di un confronto, ecco. Allora, siamo all'inizio di un confronto, allora io vorrei ripetere, a costo di essere pedante, ma voglio esserlo, tutto questo che ci ha raccontato Davide sono solo ipotesi per ora. Quindi scopriremo che cosa si può fare già dal prossimo gennaio, quando ci sarà la legge di bilancio. Quindi dobbiamo aspettare, insomma, gli ultimi giorni del 2020. Vedremo delle bozze naturalmente prima, ma poi dovremo aspettare il testo vero e proprio. E poi l'anno prossimo sarà dedicato a questo confronto in cui entreranno tutti questi temi. Però, Deborah, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma adesso, cioè oggi, settembre 2020... Esatto, cosa posso fare, data anche un po' l'indeterminatezza generale che c'è attorno a noi, anche con questa precarietà che sta vivendo il mercato del lavoro, se qualcuno avesse qualche requisito appunto per poter, magari fino a 3 mesi fa non ci pensava, ma adesso dice, sai che c'è, che io quasi quasi almeno questo lo incasso, lo porto a casa di risultato. Ma oltre a questo, quindi oltre a quello che si può fare ora, mi piacerebbe anche sapere, perché Davide lo ha sottolineato, Opzione donna, tra tutte le possibilità che si potrebbero aprire di nuovo dall'anno prossimo e rimettere in discussione, questa è una delle chance che però rischia di rimanere stabile. E quindi mi piacerebbe capire anche come mai c'è questa possibilità, appunto proprio per l'universo femminile, di avere questa sorta di garanzia, no? Allora, facciamo fare un riepilogo, se sei d'accordo, da Antonello Orlando. Dottor Orlando, adesso, cioè oggi 25 settembre del 2020, che come sono le, quali sono le possibilità di uscita anticipata rispetto ai 67 anni che ci ha ricordato Davide Colombo? Sì, ecco, allora sono parecchie, come muoversi in una giungla dove dietro ogni siepe col nostro macete pensionistico scopriremo un ingresso, quindi alcuni sono anche legati a condizioni di salute, quindi di problemi sanitari dell'assicurato. Credo che Opzione Donna meriti un capitolo di un posto d'onore, perché è una sperimentazione introdotta nel 2004, quindi dopo 16 anni di sperimentazione direi che è un vino novello che ormai è diventato adeguatamente, insomma, decantato. Richiede nella formulazione che oggi è vigente, quindi lo sottolineo, lo metto in grassetto, come un po' si evinceva dalle vostre parole, 58 anni o 59, a seconda che si sia dipendenti, lavoratrici dipendenti, tanto del pubblico così del privato, oppure 59 anni di età nel caso delle lavoratrici autonome, quindi iscritte alla gestione artigiani e commercianti, che devono essere però state compiute dalle assicurate entro il 31 dicembre del 2019. Quindi Opzione Donna non ha una scadenza oggi, ha una chiusura di maturazione del requisito anagrafico alle nostre spalle, cioè alla fine dell'anno scorso. Entro lo stesso anno deve essere stato compiuto dalle lavoratrici anche il requisito di 35 anni di contributi. Questo è uguale sia per le lavoratrici dipendenti che per l'autonome. Quali sono le conseguenze dell'Opzione Donna? Per prima cosa, devono essere donne pazienti, virtù che non manca mai al gentil sesso, perché devono dover aspettare, da quando maturano il doppio requisito dell'età 58-59 e dei contributi 35 anni, una finestra di attesa che è per le dipendenti di 12 mesi, per le autonome di 18, quindi ben un anno e mezzo. Che fare durante la finestra? Ma si può fare quel che si vuole, si può lavorare, si può aspettare, si può viaggiare. L'unica cosa che non è lecito fare è percepire la pensione. Esatto. Esatto, quella proprio è vietato ai sensi della legge. Ci ho detto, perché questo anticipo? Stiamo parlando di un anticipo che insomma, fino a 8 anni in meno della pensione di vecchiaia, quindi è sostanzioso. Si paga a cari soldi perché... La penalizzazione dell'assegno. Esatto. È difficile quantificare perché dipende persona per persona, o per dire donna per donna. Però comunque la conversione totale al metodo contributivo che prescrive come amaro calice l'Opzione Donna porta mediamente a un taglio fra il 20 e il 40% di stabile e irreversibile. Dipende da quanti anni nel retributivo aveva la nostra aspirante pensionanda, e quindi questo è un punto importante. Ecco, aspetti, dottor Orlando, perché è il 45esimo. Quando è il 45esimo qui l'arbitro, qualsiasi cosa succeda, fischia il traffico. Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico. Due di denari. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire, una monetina a te. E allora dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'Opzione Donna, che ci stava illustrando passo dopo passo Antonello Orlando, esperto del Sole 24 Ore, consulente del lavoro. L'abbiamo interrotta per il traffico, però la possiamo far riprendere. Ci stava dicendo, ci può essere una penalizzazione passando dal calcolo della pensione con un metodo, il retributivo, al contributivo integrale. La penalizzazione, cioè quello che si prende di meno di pensione, può andare dal 20 fino al 40% per sempre, non c'è poi possibilità. Esatto, di irreversibile. Cioè, la lavoratrice avrebbe potuto prendere un 40% in più, fino a un 40% in più, invece si accontenterà di pagare di meno, del 40% in meno, però potrà ritirarsi prima. Prego, dottor Orlando, era un assist per farla riprendere da dove l'avevamo interrotta. Vi ringrazio, sì, la sintesi come sempre è perfetta e splendente, quindi era un po' questo che raccontavamo di Opzione Donna, visto che cercavamo di muoversi con agilità dentro queste meandri degli anticipi pensionistici, non può essere dimenticato, anche perché prima Davide lo menzionava, credo, nelle parole di questi giorni, l'APE sociale, che è un altro anticipo che in realtà è più recente della Opzione Donna, è un'APE che ronza dal 2017 più o meno, e che non è una pensione vera e propria, è molto più simile all'indennità di disoccupazione, è un anticipo pensionistico che viene garantito su richiesta a una platea di lavoratori che devono versare in una condizione, diciamo, di bisogno, non solo da un punto di vista, anzi non da un punto di vista economico, infatti non dovranno mai depositare i loro ISEE, ma di bisogno come status soggettivo, devono avere sempre almeno 63 anni di età, devono avere tra i 30 e i 36 anni di contributi, dipende in quali di questi status soggettivi che vi snocciolo rientrino, e poi appunto devono avere una qualità, una caratteristica, devono essere disoccupati di lunga durata o invalidi almeno al 74%, o essere dei caregiver, cioè dei familiari o affini entro il secondo grado che assistano convivendo almeno da 6 mesi appunto familiare che sia disabile in condizioni di gravità, o ancora devono essere dei lavoratori gravosi, cioè addetti a mansioni gravose, per meglio dire, da almeno 6 anni negli ultimi 7. Chiaramente, lo chiarisco perché mi è capitato qualche cliente, qualche assistito che me lo chiedeva, questi 4 status non bisogna averli contemporaneamente, perché essere disoccupato, no, certo, sarebbe un catalogo di sfortune davvero, insomma, esatto, difficile da portare. Oltretutto diciamo anche che il premio sarebbe per essere riusciti a sopravvivere a questo popò di condizioni complesse, sarebbe anche esiguo, perché l'APE non è una pensione. Questi soggetti percepiscono un'indennità che è pari sia alla pensione, ma fino a un massimale di 1.500 euro lordi, che peraltro vengono erogati dall'INPS non interamente su 13 rate come la pensione, ma per 12, quindi niente tredicesima, niente festeggiamento natalizio. Quindi è un accompagnamento fino alla maturazione dell'età anagrafica, esatto, della vecchiaia vera. Però non va restituito questo APE sociale. Esatto, come mentre sempre, l'altro APE, quello standard, quello ordinario, esatto, quello veniva decurtato poi dal trattamento definitivo. E io non avevo torto a definirvi dalla preparazione ad Amantina, in realtà qui voi mi date punti, perché avete, con diciamo l'entomologia e la precisione di chi ben conosce le razze di api, avete distinto l'estinta specie dell'ape volontario o privato, che ormai ha smesso di ronzare perché non c'è più, dall'ape sociale, che è l'unico sopravvissuto, che è completamente a carico della fiscalità generale, quindi è una misura quasi assistenziale, se così la vogliamo chiamare, perché aiuta chi perde il lavoro, insomma chiude l'esperienza lavorativa e si immette in questo anticipo aspettando per la vecchiaia, quindi non c'è nessuna cifra da restituire perché è tutto a carico dello Stato. Allora, avevo una domanda per Davide Colombo, ma non ce la faccio, preferirei sentire magari un'ascoltatrice, che ne dici? Certo, Mauro, no, visto che Marta, si sono candidati in tanti. Marta da Venezia, deve essere telegrafica, grazie. Sì, buongiorno, scusi, io sono spagnola e mi dispiace se non sono telegrafica. Non si preoccupi. Niente, volevo chiedere, siccome io sono andata in pensione il 19 e fino al 21 in teoria dopo 2 anni non posso prendere il TFR, volevo chiedere, siccome so che c'è stata una normativa ultimamente che diceva che quelli che vanno in pensione nel 2020 possono chiedere un anticipo, volevo chiedere se era possibile chiedere... In che settore lavorava Marta? Perché noi sappiamo che il trattamento di fine servizio nell'ambito pubblico viene erogato con tanto ritardo, con 2 anni di ritardo. Lei dove lavorava, se posso chiedere il settore, l'azienda? Certo, settore insegnamento, cioè sono infatti, quindi il TFS prendeva servizio pubblico? Servizio settore pubblico, pubblico, sì. Settore pubblico. Davide ne ha scritto più volte di questo anticipo che deve sempre completarsi, però Davide, ho perso qualche puntata. Questo è un caso straordinario, nel senso che è una norma contenuta nel decreto del gennaio 2019 che non è ancora stata implementata. È strano perché bastava copiare la procedura seguita per il DPCM APE volontaria di 4 anni prima, c'è un anticipo con convenzione ABI, bastava fare un copia e incolla e oggi diciamo questa nostra ascoltatrice avrebbe già incassato un anticipo fino a 40.000 euro del suo TFS da svariati mesi. Appunto sono quei pezzi di, come dire, riforme che vengono scritte e poi lasciate in sospeso. Francamente non si capisce perché in questo caso, perché è veramente molto semplice la procedura. La risposta è che Marta comunque non può farne richiesta. Bisogna aspettare, allora teoricamente in questo momento l'ultimo passaggio per attivare questa misura è l'attivazione del fondo di garanzia che INPS deve gestire, che è della tesoreria naturalmente dello Stato, il DPCM è pronto, tutte le norme sono pronte, ma il ritardo è di ben oltre un anno e mezzo, per cui io spero che entro la fine dell'anno di poter scrivere un articolo sui primi anticipi anche di DFS, ecco, certo. Spero soprattutto per Marta. Se posso aggiungere un flash rispetto alle cose che dicevate flash prima davvero, sì. Sui canali di uscita. Come dicevo molte mail su questo tema, ecco, tengo a dire che quota 100 nel momento in cui scade il periodo sperimentale, cioè il dicembre del 21. Avevamo la domanda su questo, Davide, da un ascoltatore. No, rispondi pure, Cioè chi ha maturato il requisito entro il dicembre del prossimo anno e non utilizza quota 100, quel diritto diventa un diritto pieno che lui può utilizzare negli anni successivi. Acquisito. È proprio il caso, guarda, 22, Davide, che 23, ci. Sì, Maurizio da Pisa ci rappresenta esattamente questo. Dice: sono andato al CAF, mi hanno detto: beh, ma se non se ne va nel 2021, non si preoccupi, perché lei comunque il requisito di quota 100 l'ha maturato. E tu lo confermi, no? Cioè è così. Sì, no, se ne può andare pure nel 22, nel 23. Facendo diritto, valere i requisiti maturati. È un diritto soggettivo pieno, una volta maturati i requisiti dentro il triennio di sperimentazione, quindi in questo caso entro la fine del 21, 62 più 38 di contributi minimi, ecco, con questo, diciamo, con questa fiche si può andare in pensione con quota 100 anche nel 22, 23, 24, eccetera, tanto è vero che la norma come dire, prevede oneri fino al 2029, oneri importanti. Ottimo, grazie ad entrambi come rapido sempre. Rapido come l'esame di Suarez all'Università di Perugia. Ma smettila, ma guarda tu che mi devo andare ritraverso il fine settimana. Buona domenica a tutti, anche a te, Deborah. Buon weekend a tutti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.